9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, un buon martedì post natalizio, 28 dicembre. Oggi torno su un tema che avete trovato sui quotidiani e ha animato l'informazione italiana qualche giorno fa, intorno al 16-17 dicembre, all'indomani del rilascio di un test che avviene ogni 3 anni. È un test che per un numero elevato di paesi, 74 paesi, compie un'indagine comparata con criteri standard sulla capacità degli studenti, dei quindicenni delle scuole di diverso ordine e grado di ogni paese su 3 questioni di fondo. Uno, la capacità di lettura e comprensione di un testo, poi matematica e poi scienze, e compiendo quindi un'analisi comparata del livello di preparazione degli studenti quindicenni. È una metodologia che l'OCSE ha affinato di edizione in edizione di questa indagine, un'indagine che avviene ogni 3 anni e che appunto si è estesa fino a 74 paesi. Viene considerata questa indagine, che si chiama PISA, è l'acronimo di questa indagine, uno dei criteri, diciamo così, standard più autorevoli per misurare il livello di efficienza dei sistemi di formazione. Quali erano in pillole i risultati che riguardavano l'Italia rispetto agli altri paesi avanzati? Per quello che riguarda la lettura, l'Italia si piazzava nella classifica internazionale che vede ai primi posti Cina, Corea e Finlandia. L'affermazione della Cina era il dato più clamoroso di questa edizione dell'indagine, e comunque l'Italia si piazzava, per quello che riguarda la lettura, in 29esima posizione, 486 punti, una media OCSE è quella di 493, quindi 7 punti, e con uno scostamento che era minore di quello del 2000, dove, quando risaliva a 13 punti, nel 2004 era 18 punti, nel 2006 era cresciuto fino a 23 punti, adesso è diminuito. Siamo sotto media OCSE per quello che riguarda anche la matematica. Per la matematica il nostro paese si piazza al 35esimo posto, con un punteggio di 483 rispetto a 496 della media OCSE, anche qui 13 punti di distacco, ma anche qui rispetto alle edizioni precedenti lo scarto è in via di diminuzione, perché lo scarto era di 36 punti e non di 13 punti nel 2006, ed era di 34 punti nel 2003. Sia per quello che riguarda la capacità di lettura e di comprensione di un testo, che per quello che riguarda la matematica che le scienze, ci sono poi alcune tendenze all'interno dei 30.000 testati per paese dei diversi istituti che emergono. Uno di questi era la migliore preparazione attestata delle donne, delle ragazze rispetto ai maschi, che raggiungono un risultato inferiore. E secondo aspetto, un grande divario territoriale, perché a livello regionale si riscontrano appunto fortissime differenze nel nostro sistema della formazione, e la regione migliore nel complesso secondo l'indagine PISA è la Lombardia, i cui studenti superano la media OCSE in lettura, matematica, scienze, perché hanno 522, 516 e 526 punti. Nel sud è la Puglia la regione che ottiene risultati superiori rispetto alla media nazionale, pensate, ben 50 punti di media superiori al resto del sud, mentre invece poi il divario è molto netto su delle isole che stanno sotto i punteggi nazionali. Pensate che per quello che riguarda sulle isole siamo a 468 punti e 456 punti rispetto ai 511 nel nord-ovest e ai 504 del nord-est per quello che riguarda la lettura e comprensione di un testo. Oltre al divario di genere, donne meglio degli uomini, oltre al divario territoriale, nord molto meglio del sud, un terzo punto dall'indagine PISA si evidenziava, ed era quello dell'apporto qualitativamente assai più pregevole della scuola pubblica rispetto agli istituti privati. E quindi all'indomani della pubblicazione dei risultati dell'OCSE PISA, i quotidiani hanno, riducendo in pillole i tante, le tante tabelle comparate, hanno detto: come vedete, la scuola privata è una scuola di pessima qualità. Ed è ripartita la polemica, perché naturalmente molti hanno iniziato a dire: ah, ma come, proprio allora vedete, è ancora più fondata l'accusa che noi rivolgiamo a coloro che invece sostengono la scuola privata rispetto alla pubblica, è ancora più fondata l'accusa al ministro Gelmini di trovare risorse per la scuola privata, quando invece la taglia la scuola pubblica, naturalmente accomunando come sempre la gestione delle risorse, quindi Tramonti, alle scelte del ministro Gelmini. Allora, detto questo, quando poi nei giorni successivi ho visto uscire un articolo a firma di Giorgio Israel che contestava, argomenti alla mano, questa conclusione in particolare del rapporto Oxfam-PISA, cioè quella che puntava il dito accusatore contro gli istituti privati, mi sono detto che era il caso di tornare sull'argomento. E quindi ho organizzato un confronto intorno innanzitutto alla tesi. Teniamo come scenario a cui fare riferimento in tutti i commenti quello che però questa indagine ci consegna della posizione italiana rispetto al resto del mondo e alle competenze di base, alle skills che la nostra scuola deve dare ai nostri giovani. Però partiamo da questo punto, che è un punto che mi ha colpito molto. L'articolo pubblicato sul giornale del professor Israel aveva come titolo: la scuola fa schifo, se fosse ottima, secondo il testo Ox e Pisa, gli istituti statali sono migliori dei paritari. L'Invalsi, che si occupa della valutazione, appunto, arriva alla conclusione opposta: la valutazione degli insegnanti a livello di istruzione deve essere assegnata ad altri strumenti. E allora su questi altri strumenti iniziamo la trasmissione, tenendo sempre appunto il rapporto come sfondo per tutto quello che ci dice intorno a come diversamente allocare le risorse nella nostra scuola. Abbiamo in questa prima parte della trasmissione ospite appunto il professor Giorgio Israel, che insegna, ordinario al Dipartimento di Matematica dell'Università di Roma la Sapienza, e fa editorialista per quotidiani come Il Foglio e Il Giornale. Buongiorno professor Israel. Buongiorno. E abbiamo con noi anche Mimmo Pantaleo, segretario generale dell'FLC, cioè la Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGIL. Buongiorno Pantaleo. Buongiorno a voi. Allora, professor Israel, in particolare, qual è il criterio che la convince poco di indagini come questa Ox e Pisa in merito alla qualità dell'istruzione privata all'interno del sistema della formazione paritaria legalmente riconosciuta italiana, e quale altro criterio invece secondo lei sarebbe più efficace al posto di queste indagini? Dunque, cominciamo col dire che io sono sempre più sconcertato dal fatto che si parla moltissimo della metodologia di rilevamento di queste classifiche, per determinare queste classifiche, non si parla mai, non si esaminano mai i test che vengono, come si dice, somministrati. Per me questa è la questione cruciale. A me non interessa affatto, francamente, o comunque secondariamente, le metodologie usate, quanto sapere che test vengono somministrati, in particolare per esempio in matematica, perché se il test è fasullo, non si sa chi l'ha fatto. Io certe volte ho chiesto insistentemente di vederli, quando l'ho visti certe volte sono inorridito. Aggiungo inoltre che per determinate materie, per determinate competenze, come già la matematica, passi ancora alla lettura o la grammatica, i test sono assolutamente insufficienti, perché la modalità con cui uno risolve un problema è il fatto fondamentale, quello che fa vedere l'effettiva competenza. Mi permetto un esempio: lei ha citato prima Cina, Corea, Finlandia come tra i risultati migliori, per esempio in matematica. Ora, Cina e Corea non mi sorprendono, in Cina e in Corea si insegna ormai matematica da anni con le modalità che c'erano in Europa 35 anni fa. I risultati sono eccellenti, sappiamo che il 52% dei PhD, cioè dei dottori di ricerca negli Stati Uniti, vengono da Cina, Corea, Giappone, Singapore, eccetera, quindi la qualità è tale che evidentemente superano ogni tipo di test. La Finlandia è un discorso interessante, io me ne sono andato a occupare, e esiste una letteratura finlandese che sostiene che in realtà loro hanno sviluppato un tipo di insegnamento che risponde alla esigenza di superare brillantemente i test Ox e Pisa, ma che in realtà sta smantellando l'insegnamento della matematica. A tal punto, in un articolo di un finlandese spiegava come in realtà la matematica che viene insegnata in Finlandia è un oggetto, diceva, un oggetto didattico che con la matematica vera non ha niente a che fare. Faccio soltanto un esempio che può capire chiunque. In questo articolo si spiegava come se oggi tu entri in una macelleria in Finlandia e chiedi 3/4 di chili di carne, di chilo di carne, non lo capiscono, semplicemente perché sono abituati ormai a concepire i numeri soltanto in modo digitabile su un calcolatore, quindi cifre al più decimali, e le frazioni non si conoscono più. Il segno uguale è stato abolito e sostituito dal segno V, che sta per una parola finlandese che vuol dire risultato, ma si capisce, chiunque capisce, che questo è un modo per tornare prima dell'algebra. Cioè lei sostiene in realtà la Finlandia che viene indicata in testa ha semplicemente evidentemente ancora una modalità che le consente di rispondere bene al test come è formulato, ma questa è tutt'altra cosa rispetto a batterci matematica. Il cosiddetto teaching to the test, cioè l'insegnamento in funzione del test, che è stato sperimentato in particolare negli Stati Uniti. Io consiglierei di vedere un bel serial televisivo, anzi considerato il migliore della storia, The Wire, che racconta, descrive la vita di una città difficile come Baltimora, e in varie serie c'è una serie dedicata alla scuola che è una critica devastante dell'insegnamento in funzione del test. Ok, fatta questa premessa generale di ordinaria cautela sulle metodologie con cui vengono fatti i test rispetto a quello che poi pretendono di affermare, quale altro criterio invece affermare secondo lei, e in particolare sul punto pubblico-privato quale opinione ha? Allora, sul punto pubblico-privato io penso che, come ho scritto in quell'articolo, questi risultati siano nient'altro che le statistiche alla Trilussa, del pollo di Trilussa, cioè una media non vuol dire nulla. Se io devo scegliere, ci sono istituti statali eccellenti, ci sono istituti privati eccellenti, e a me interessa sapere il singolo istituto. Qui veramente ci vuole una valutazione capillare, cioè sapere, conoscere una media, tra l'altro. Lasciamo perdere, mettiamo che quei test diano dei risultati validi e attendibili, ma comunque è chiaro che una media non ha nessun interesse. Io come famiglia, diciamo come genitore, voglio sapere la qualità del singolo istituto e del singolo docente, non mi interessa conoscere una media, non serve a nulla. Per la valutazione di questo tipo, a mio parere, l'unico sistema valido è quello delle ispezioni. Certo, non le ispezioni ministeriali improponibili oggi di 50 o un secolo fa, insomma, è chiaro che ci vuole un sistema differente. Io penso a dei sistemi che per esempio a livello universitario in vari paesi sono stati collaudati, e cioè la formazione di commissioni miste composte da docenti di altri istituti, di altre città, eventualmente qualcuno in pensione, anche un ispettore ministeriale e così via, i quali vadano nella sede e la rivoltino da cima a fondo, cioè cercando di capire come si insegna, quali libri di test si usano, le valutazioni che si fanno, interrogare i singoli docenti, sentire le famiglie, gli studenti e così via, e poi fare un rapporto dettagliato di qualità della scuola. Questo si può fare a campionamento su un 10-15% di scuole l'anno, ed è sicuro che svilupperà un processo. Quello che dico è che la valutazione deve essere un processo culturale di controllo interno severo, come del resto si deve fare nell'università. Questo alla lunga produce dei risultati virtuosi, anche non solo alla lunga, anche abbastanza presto, ma è sicuramente più efficace che non alcuni sistemi di valutazione pretesamente oggettivi e che in realtà nascondono le valutazioni soggettive, come ho detto nell'articolo, come la spazzatura sotto il tappeto. Oh, ma lei non crede che in questo paese in cui gli magistrati rifiutano la logica del controllo di produttività dall'alto perché ritengono che potrebbe essere una proiezione del potere politico nelle attività autonome del magistrato, se si tratta di verificare dall'alto qual è la produttività dei medici negli ospedali, i medici sostengono che si tratta di criteri impropri perché non può essere misurata con questioni amministrative. Le chiedo, alla luce di quello che negli ultimi mesi il dibattito, la protesta molto forte nelle università, prima nella scuola, nei confronti di chi è il titolare pro tempore dell'indirizzo poi del ministero, avendo vinto le elezioni, succede così finché ci sarà la democrazia rappresentativa, non crede lei che questo criterio delle ispezioni sul territorio, che come dice lei vanno agli istituti e li rivoltano come un calzino e poi danno i voti, danno giudizi comparati, verrebbe inevitabilmente accusata e tacciata di essere una specie di levolanti del colore politico pro tempore del ministro? Ma sì, è possibile, ma che vuol fare? In un modo o nell'altro, io non sono certo di quelli che pensa che la valutazione non si deve fare. La valutazione si deve fare, il problema è come farla. Poi naturalmente è chiaro che questo è un paese poco abituato alla meritocrazia, anzi pochissimo, quindi è chiaro che su questo piano bisogna da qualche parte sfondare, però vede, se uno adotta dei criteri pretesamente oggettivi come quelli di tenere conto dei giudizi delle famiglie, mi lasci dire, io sono ho padre di due bambini, le famiglie purtroppo oggi tendono a essere sindacalisti dei figli, il giudizio delle famiglie va in genere favorisce l'insegnante peggiore e così quello degli studenti. Se si pretende di valutare mediante test, e le ripeto, poi bisogna vedere chi li fa questi test, spesso vengono dati con criteri discutibili a delle ditte incompetenti, a delle persone che fanno dei test, potrei farle vedere degli esempi, allucinati. Allora, molto meglio che tutto avvenga alla luce del sole. Le accuse ci possono essere, bisogna fare una battaglia su questo. Io sulla questione della legge universitaria sono stato uno dei promotori di un manifesto in difesa con tutti i suoi limiti, di una riforma che però ha aperto la strada a qualcosa di positivo. Bisogna andare avanti in questa direzione con coraggio, però credo che questo sia il modo per acquistare il consenso di una fascia piuttosto ampia di docenti bravi, i quali non hanno timore di questo genere di controlli e di valorizzare la loro funzione, non di umiliarla mediante dei controlli che si pretendono oggettivi ma che in realtà non lo sono e che sviliscono la funzione del docente. Cerchiamo di valorizzare i migliori, chi non ha nulla da nascondere sarà certamente premiato da ispezioni di questo tipo. Allora, adesso facciamoci una lunga riflessione con Pantaleo invece, perché la FLC, la Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGIL, è stata legittimamente in prima fila nel sostenere invece che l'indirizzo del governo attuale, del ministro attuale, è stato quello di premiare troppo il sistema, l'offerta di formazione privata, quella che secondo l'OCSE Pisa invece non contribuisce se non dequalificando ulteriormente all'offerta formativa del nostro paese. Gli chiedo se continua a essere di questa idea o se invece i dubbi del professore Israel e il criterio diverso per la valutazione della qualità del nostro sistema formativo con gli ispettori, senza fare questi test internazionali sui quali ha espresso tutti i suoi dubbi, come la pensa Pantaleo? Guardi, sui risultati OCSE Pisa anch'io sono convinto che le rilevazioni non sono lo specchio fedele di qual è lo stato della scuola italiana. Peraltro voglio ricordare che questi test sono stati fatti ai quindicenni nel 2009 e quindi l'evoluzione anche del quadro generale, penso insomma alla vicenda d'Italia ad esempio, non ha avuto ancora tutti i suoi effetti, quindi bisognerà comunque attendere, diciamo, la prossima valutazione per capire il rapporto tra il risultato 2009 e il risultato 2012, quanto appunto si terrà conto fino in fondo dei tagli fatti. Non è del tutto attendibile la rilevazione OCSE, anche perché mette in relazione paesi con diversità di programmi, di curriculi, e non si tiene in alcun modo conto dell'opinione e la percezione dei docenti. Voglio ricordare che nella rilevazione dell'OCSE Pisa, voglio dire, anche questo è un dato. Detto questo, però, io credo che esce confermato un punto, che intanto la scuola pubblica non è tutta fatiscente, insomma, per mesi da parte del Ministero e della Ministra Gelmini si è data una raffigurazione della scuola italiana come tutta fatiscente, incapace di adeguarsi alle novità, e per questo bisognava introdurre quelle che sono state definite riforme, ma che io giudico delle vere e proprie controriforme. Penso alla scuola primaria ad esempio, il superamento delle compresenze era un modello pedagogico tra i più avanzati in Europa, è stato smantellato per tornare al maestro prevalente, non al maestro unico, perché ormai nelle classi della primaria si alternano più insegnanti. sono stati aumentati il numero degli alunni per classe, fatti tagli degli organici, insomma è stata fatta un'operazione in qualche maniera di ridimensionamento finanziario e strutturale del sistema scolastico italiano, motivandolo appunto con la fatiscenza del sistema. Oggi ci viene raccontato dalla OCSE PISA, nonostante ho detto le cautele con cui sono stati fatti, diciamo, questi test, che una parte della scuola italiana, non tutti, perché come lei giustamente ha detto, ci sono delle differenze territoriali, addirittura differenze nelle stesse regioni tra scuola e scuola, però viene data una raffigurazione della scuola pubblica italiana diversa, cioè una scuola che con tanti limiti, tanti difetti, però riesce a garantire ancora una qualità di apprendimento che certamente ha bisogno di innalzare i suoi standard. Nel rapporto con la scuola privata, io anche qui vorrei, diciamo, sgombrare il campo da una discussione troppo ideologica. Allora aspetti, ci fermiamo qua e riprendiamo esattamente di qua, dal punto della scuola privata, perché abbiamo altrimenti il vincolo temporale, dobbiamo mandare la pubblicità adesso e poi ritorniamo con Pantaleo sul punto della privata. Allora Pantaleo, abbiamo detto che secondo lei in questi anni si sono portati dei colpi per via della riduzione delle risorse finanziarie alla scuola pubblica, che però malgrado tutto, lei dice, dal quadro OCSE PISA rimane attestata, anzi in miglioramento sulla sua capacità rispetto alle edizioni precedenti di offrire formazioni, però sulle private, e l'avevo interrotta qui, sulle private? Sulle private intanto bisogna uscire da una discussione ideologica che a mio avviso ha attraversato un po' il dibattito in questi ultimi anni. Allora, beh, però voi ci siete, posso dire una cosa, ci siete andati un po' pesanti voi contro le private o no? No, ma guardi, allora, il punto è questo, intanto a norma della Costituzione, io credo che bisogna fare tutti gli sforzi per avere una buona scuola pubblica, questo mi pare del tutto evidente. E voglio ricordare a questo proposito che la scuola pubblica italiana è quella più sottofinanziata a livello OCSE, lo ha ribadito l'OCSE, 1,2% in meno rispetto alla media OCSE. Voglio ricordare che l'Italia è penultima per spesa pro capite per studente, insomma, $7,948, e questa è la spesa che abbiamo, poi con grandi differenze territoriali anche qui, perché voglio ricordare che nel Mezzogiorno si spende molto meno. Detto questo, esiste anche una buona scuola privata, ma bisogna ribadire però un concetto: dove esiste la buona scuola privata? Esiste nella scuola d'infanzia, ad esempio, un pezzo consistente della scuola d'infanzia sta in mano ai privati. Esiste in qualche parte della scuola primaria, anche se per effetto appunto dei tagli nella primaria oggi abbiamo una più brutta scuola pubblica. E abbiamo poi i cosiddetti diplomifici, cioè quelli delle scuole secondarie superiori, che è una vera logica di mercato e che non possono assolutamente competere con le scuole pubbliche. Ai diplomifici si rivolge chi sostanzialmente non vuole studiare, chi sostanzialmente vuole sfuggire al voto in condotto che la ministra Gelmini ha messo, chi sostanzialmente alla fine cerca attraverso i soldi di comprarsi un diploma. Quindi io penso che anche nel sistema, diciamo, delle cosiddette paritarie va introdotta anche lì un criterio anche di meritocrazia, insomma, perché quando sento parlare, diciamo, di valutazione, di meritocrazia, di tutte queste cose belle, diciamo, però se andiamo a vedere esattamente che cosa succede in tante scuole secondarie superiori private, ci accorgiamo appunto che sono fabbriche di diplomifici in cui i docenti non sono pagati, in cui si è deciso addirittura di introdurre l'apprendistato per i docenti, non so se è chiaro, nelle scuole paritarie, se col connubio associazioni ministro Sacconi, si è voluto introdurre per i docenti il contratto di apprendistato. Sì, sì, sì. Ci troviamo di fronte, diciamo, a questa diversità. Ripeto, bisogna distinguere tra ciò che è buono e ciò che è cattivo. Quello che non è accettabile è che mentre si tagliano risorse ingenti alla scuola pubblica, 8 miliardi di euro, si danno 245 milioni alle scuole private, si fa un disegno di legge sull'università in cui anche lì si dà ampio spazio ai privati, in una logica che secondo me è aberrante, perché però, insomma, l'idea che la scuola privata alla fine possa essere scuola d'elite per chi coloro i quali stanno in soldi, la scuola pubblica per chi non ce l'ha, mi pare un'idea non repubblicana. Lei dice, volevo arrivare a questo termine tagliente come una lama, il termine repubblicano, perché il termine repubblicano, che dovrebbe essere utilizzato come un'idea di valore civico condiviso all'interno di un paese, è impugnato poi in maniera tagliente. Io continuo a pensare anche da lei, perché lei dice pubblica e poi fa la distinzione del privato, mentre invece per me la concezione tra virgolette repubblicana, capace di superare ogni contrapposizione ideologica, dovrebbe intendere che l'offerta della formativa del sistema pubblico è pubblico non perché individua solo quelli gestiti, gli istituti gestiti da personale dipendente dal pubblico. È pubblico perché comprende al suo interno, in quanto considerati analogamente capaci di offrire programmi di formazione in linea con gli standard individuati da un'autorità che vigila poi su questi standard, sia istituti dove il personale è pubblico, sia istituti che sono gestiti e organizzati da privati, che entrambi fanno parte del sistema pubblico dell'istruzione. Mentre lei continua a dire pubblico uguale ciò che è di Stato e privato ciò che è esterno al sistema della formazione pubblica, perché altrimenti tutti i criteri con cui abbiamo costruito il sistema delle paritarie legalmente riconosciute, per così dire, salta se continuiamo a utilizzare questa distinzione. Poi dice lei, e sono d'accordo, non significa partire dal pregiudizio che tutto ciò che è privato è meglio, perché qui i casi dei diplomifici, come giustamente lei li ha, vengono indicati nella pubblicistica corrente, è un caso che è totalmente inevitabile, cioè dobbiamo assolutamente tutti avere presente che esiste questa particolare offerta formativa che nasce, secondo me, io sono d'accordo con i termini che ha usato lei, però l'offerta formativa privata è un'offerta che si riduce a quello, come spesso nella polemica passa nel nostro paese, oppure non conta il fatto che il più dell'offerta formativa è per esempio di stampo cattolico religioso, e qui c'è un altro pregiudizio che parte, perché è come se fosse una specie di spirito alternativo a quello repubblicano e pubblico. Ecco, queste sono le questioni secondo me di fondo per valutare se il professor Israel, che ci dice non fidiamoci troppo dei test, e le private non è vero che sono la parte dequalificante, organizziamo un sistema diverso per capire qual è la parte più efficiente e meno efficiente, mandiamo gli ispettori, e dall'altra parte c'è il punto di vista, abbiamo scelto apposta Mimmo Pantaleo con l'organizzazione forte che rappresenta, che dice no ragazzi, qui c'è un problema, voi volete con questo fare dei favori al privato. Io sono dell'idea che il privato valutato secondo criteri di standard di efficienza, esattamente come il modello britannico per intenderci, dove il sistema della formazione è un sistema dove la presenza privata è fortissima, però è fortissima anche un'autorità centrale di standard di qualità dell'offerta, capace di levarti i soldi pubblici dei trasferimenti se la tua qualità non è certificata. La logica è quella esattamente degli ispettori che ci dice Israel come criterio, e io sono per un quel sistema di questo tipo, perché sono convinto che dal privato non possa venire solo la soddisfazione di una parte poco degna di domanda formativa da parte delle famiglie, comprarsi il diploma, come ha detto Pantaleo, e ha ragione. Secondo me dal privato può venire anche invece una capacità di interazione con tecnologie, sbocchi sul mercato del lavoro, una migliore capacità di sapere leggere l'offerta oggi esistente sul mercato del lavoro italiano, cosa che il sistema della formazione pubblica non ha. Per questo io non ce l'ho col privato, e credo che con un'autorità centrale, con molti ispettori capaci di andare a fare le pulci su che cosa fanno davvero professori nelle scuole, un po' di privato in più non verrebbe più concepito come il nemico ruba risorse, come un po' è invece nelle parole di Pantaleo. Sentiamo adesso come la pensa un altro ospite, Roberto Pellegatta, che è il presidente della DISA, l'associazione di dirigenti scuole statali e paritarie autonome e libere, su tutto quello che abbiamo detto. Che dice Pellegatta? Buongiorno, innanzitutto ringrazio dell'invito. Non ho seguito tutte le battute precedenti, ma solo le ultime. Mi pare che la questione in gioco sia, se ho ben capito, il problema dell'efficacia di questi sistemi di valutazione OCSE PISA. Ma innanzitutto su questo primo aspetto devo dire che sicuramente può darsi che in parte abbia ragione Israel, non sono la panacea di tutti i mali. Resta il fatto che da quando questi sistemi di valutazione sono stati introdotti nelle scuole, io ho visto molte scuole rimettersi in movimento. Può darsi quindi che il riflesso non sia totalmente esatto, però la sola idea che finalmente si va a valutare la resa delle scuole statali potrebbe finalmente mettere in movimento la gran parte delle scuole statali che purtroppo non sono in movimento verso l'innovazione. Questo mi sembra un dato interessante e significativo. E sulla parte che riguarda, le scuole private, sì. Io adesso non sto a ripetere gli articoli che sono apparsi sui giornali. L'operazione fatta da Repubblica, che ha deformato i dati facendo credere che le private erano quelle che peggioravano la resa italiana, è stata smascherata da articoli di esperti come Isolì Borzi, che ha fatto vedere, dati alla mano, che era esattamente la situazione contraria. quindi su questo. Quindi lei dice c'è stata una punta di evidente malafede derivante dalla lettura tribale dell'italiana dei dati. Persone, docenti universitari che hanno scritto su alcuni giornali sull'argomento sono più esperti di me, hanno mostrato con chiarezza dove stava la malafede nell'uso dei dati. Tra l'altro faccio presente una questione che rispetto a quel che ho sentito prima. Se innanzitutto noi italiani siamo chissà come mai appassionati alla guerra tra poveri, cioè che ci sia un calo delle risorse sulla scuola, su tutta la scuola, e chi lo mette in dubbio? È un dato di fatto. Stare a farci la guerra tra poveri dicendo a quelli là danno i soldi, a me no, a me li danno e lui no, è veramente penoso. Invece credo che un sindacato serio, cosa che fino adesso sinceramente è da vedere, un sindacato serio debba chiedere migliori risorse per tutti, non per alcuni e altri no, anche perché non riesco a immaginare per quale ragione i figli di alcune famiglie debbono essere più penalizzati di altre. Lo so, però naturalmente l'impostazione bellicista è un'impostazione che quando si fa rappresentanza fa parte un po' delle regole del gioco, per così dire. Ecco, quindi da questo punto di vista sarebbe bello vivere in un mondo irenico, ma siccome i sindacati sono plurimi nel nostro paese, ognuno usa gli argomenti che ritiene più adeguati per fare più iscritti e dare loro uno spirito di corpo, e credo che è chiaro che quello del settore della CGIL è difficile che si possa immaginare, voglio dire, che difenda istintivamente le scuole cattoliche. Certo, sarebbe un'ottima cosa se avvenisse. Sentiamo come la pensano un po' dei nostri ascoltatori, poi torniamo a fare un giro rapido con i nostri ospiti. Cominciamo con Valeria, che ci chiama dalla provincia di Bergamo. Prego Valeria. Sì, buongiorno, io volevo dire che c'è una terza via oltre alle due che ha indicato lei. La terza via è una riforma a costo zero, meno macchinosa degli ispettori, che è quella di far pubblicare i dati che le università hanno, per esempio il Politecnico di Milano, sulle, diciamo, le scuole che preparano meglio gli studenti universitari, le scuole secondarie superiori che preparano meglio e quindi, diciamo, hanno studenti più brillanti all'università. Questo è un dato che a Milano c'è, il Politecnico A, e che non viene pubblicato perché c'è una legge della privacy o privacy che dir si voglia, e quindi i presidi impediscono questa pubblicazione. Tra l'altro c'è un articolo su Corriere della Sera di pochi giorni fa che diceva esattamente questo, ed era un'intervista al maggior esperto di meritocrazia in Italia che ha pubblicato dei libri recentemente. Una riforma a costo zero basterebbe far parlare l'università. Roger Abravanel, privacy o privacy, appunto, come dice Valeria, quanti delitti nel tuo nome. Francesco da Pavia, come la pensa invece? Sì, salve Oscar. Ma guardi, io sono d'accordo con la medicina che il professor Israel ha indicato per cercare di dare valutazioni un po' più obiettive. Ho ascoltato con un po' di sconforto però il discredito di questi dati OCSE. Mi è sembrato un po' la piaga italiana del dire se non siamo nei primi posti allora è sbagliato il modo di fare la classifica. Però Israel non ha detto questo, guarda, siccome il professor Israel è un inflessibile meritocratico, non attribuiamogli, sennò poi sbrana me. Mi viene da dire che se vado in Finlandia e in macelleria hanno difficoltà a capire le frazioni, io sono convinto che però parlano l'inglese molto meglio in macellaria. Sì, però noi stiamo parlando, come insegna matematica, adesso Nordevio dice, io dico a tutti attenzione a come si sono congegnati i test, perché a seconda di come sono congegnati i test a volte magari ci si organizza per dare ottime risposte ai test e salire nelle graduatorie internazionali senza per questo poi che ciò significhi davvero che l'insegnamento della matematica è davvero medio, meglio che medio, ottimo. Questo ha detto testualmente, non ha detto se non siamo in testa alle classifiche vuol dire che non sono ben fatti. Comunque adesso l'ho interrotta. Francesco diceva i diplomifici tutti potremmo dire qualsiasi cosa, perché tutti abbiamo esperienza del vicino di casa che da asino diventa improvvisamente un genio e piglia il diploma, però c'è un problema di fondo che secondo me è interessante toccare, è quello delle motivazioni degli insegnanti. Nella mia carriera di studente, dalle elementari all'università, io mi sono trovato al di là della cattedra persone che sono finite per caso a insegnare, gente che ha fatto un percorso che l'ha portato coscientemente a voler insegnare, ne ho trovata veramente pochissima, fatalmente sono stati i più bravi, quelli che ricordo con più affetto e che mi hanno trasmesso di più. La motivazione dell'insegnamento. In Italia tutte le indagini su questo argomento dicono che il più delle scelte dell'indirizzarsi verso questa professione, per il cui poi titolo di esercizio ci sono lunghissimi anni di precariato, eccetera, eccetera, è diventato sempre più complicato, ma è una cosa che ha avuto una PIL di massa perché rispondeva a posto sicuro con minor impegno. Adesso io lo so che gli insegnanti insorgono in ascolto, ma non lo dico io, lo dicono decenni di indagini accumulate su questo. Tant'è vero che esiste una componente di genere fortissima che è servita nell'evoluzione del mercato del lavoro italiano come allocazione prioritaria dell'offerta di lavoro femminile, esattamente per queste poco nobili, sia pure ragioni comprensibilissime. E questo ha spiegato l'appeal della cattedra di massa, per la scuola di massa, i cui risultati sono stati spesso la dequalificazione di massa e un'illusione di massa con frustrazione di massa degli studenti. È tutto una cosa collegata. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, poi ancora qualche telefonata e il giro finale dei nostri invitati. Allora, sentiamo Federico da Alessandria, sul punto ispettori e private come la pensa. Federico, prego. Buongiorno dottore, soprattutto al sindacalista CGL. Sì. Il problema secondo me è di guardare a se il PISA è valido o no, o se è meglio la scuola privata o pubblica, il classico metodo italiano utilizzato per dividersi in tribù, di guardare al dito e non alla luna. Io ho tre figli, la più giovane si diploma quest'anno, per cui ho una certa esperienza, sempre fatto il consigliere di classe. Non ci fossero i tempi radio, potrei farle degli esempi che sono delle evidenze di quello che le dico. Il problema è l'incapacità e l'incompetenza di alcuni insegnanti che vengono pagati né più né meno come quelli bravissimi, e c'è anche il problema grosso di alcuni bravissimi, cioè molto colti, molto competenti, a cui purtroppo, ribadisco, nessuno ha insegnato ad insegnare, e non sono in grado di riversare la loro cultura e le loro capacità ai ragazzi. Questa è la luna, non il dito del Pisa, non Pisa, Atene, non Atene, eccetera, eccetera. La saluto e l'ascolto per radio. Buongiorno. Grazie Lorenzo. Scusami, grazie Federico, chiamato Alessandro. Lorenzo da Milano. Buongiorno. Io telefonavo proprio per rispondere al sindacalista quando ho sentito parlare dei diplomifici e delle secondarie. Io porto solo la mia esperienza, cioè di un insegnante che da 14 anni ha scelto, sono di quei pochissimi che ha scelto scientemente di andare a insegnare fin dall'inizio, e che mi sono abilitato con due abilitazioni ai tempi del 2000, quando si è riusciti a entrare fortunosamente, ma che mi sono fermato alla privata perché lì ho trovato un posto dove ho trovato colleghi che mi hanno sostenuto, un ambiente che mi è stato favorevole, tanto da farmi pensare che quando ho ricevuto anche delle richieste dallo Stato non mi sono spostato, sono rimasto in una privata dove ho potuto lavorare, una privata secondaria dove ho potuto lavorare con grande soddisfazione, guadagnando meno sicuramente, perché poi è anche questo da sfatare, come se nel privato ci fosse un favoritismo anche dei docenti. Si guadagna di meno, però il mio punto di vista è stato sempre quello di favorire prima di tutto i miei ragazzi, le mie classi. Grazie Lorenzo. Si figuri, nel mio mondo ideale addirittura non ci sarebbero trasferimenti a istituti, ma lo Stato dovrebbe riconoscere il voucher alle famiglie, che secondo me sono il vero motore, il vero interlocutore della scelta e il vero giudice della qualità dell'offerta formativa, e alle famiglie bisogna dare i voucher, cioè la capacità di indicare presso quale istituto si alloca la spesa, il trasferimento di risorse per il sostegno alla formazione del capitale umano dei loro figli. E io farei così nel mio stato ideale. Questo verrebbe naturalmente accusato di scardinare i principi della scuola pubblica, che però nel nostro paese ha realizzato la non efficacia dell'ascensore sociale. La nostra scuola pubblica, prioritizzando le cattedre e la spesa in personale, ha realizzato il meccanismo di ascensore sociale più bloccato di tutti i paesi dell'Occidente. Ci sarà una ragione, naturalmente. Io capisco che Pantaleo obietta e dice che ho torto. Si tratta dei punti di vista che si affrontano nel sistema della formazione. informazione tra chi dice taglio di risorse e poi dice, trascura il fatto che il 99% di risorse solo per avere più personale, e chi dice no, noi di risorse ne avremo meno nei prossimi anni, dovremo riallocare profondamente quelle che ci sono, tanto profondamente che io renderei responsabili della scelta le famiglie. Ecco, questa è la mia controvisione, che non passerà mai perché è liberista. Una domanda per Israel, ci scrive uno dei nostri ascoltatori da Mestre, Mauro Martello, e dice: caro Giannino, gli ispettori scolastici di cui parla Israel, io insegno da 30 anni e li conosco benissimo, sono dei burocrati, il loro lavoro è leggere e fare le pulce ai verbali che noi insegnanti, siccome non siamo scemi, abbiamo imparato a compilare benissimo, più o meno altrettanto bene di come si possono dare le risposte ai test delle comparazioni internazionali per fare bella figura. Siamo così sicuri che sia opportuno assegnare a loro il controllo della didattica nelle scuole? Ecco, questa è la domanda che le fa un ascoltatore alla sua proposta centrale, quella del più potere agli ispettori. Come rispondiamo, Israel? Ecco, che non, lui fa riferimento non agli ispettori a cui penso io. Io dico sinteticamente questo: la scuola italiana è stata devastata da un connubio efferato tra pedagogismo costruttivista e la concezione della scuola come ammortizzatore sociale. Sono due cose che si sono messe insieme e l'emblema ne è esattamente la devastazione della scuola primaria e l'idea del team degli insegnanti. Ora, gli ispettori, dopo anni e anni di questa ideologia costruttivista, sono purtroppo in larga misura rappresentativi di questa visione. E quindi non, gli ispettori intendo quelli proprio ministeriali, la tradizione. Io penso a un'altra cosa, io ho parlato di ispettori, di team di professori di altre scuole, eventualmente anche un universitario, professori in pensione e così via, che vanno a fare queste ispezioni, con l'aggiunta di un ispettore mandato dal Ministero. Non ho pensato affatto alla vecchia struttura, quindi la risposta è estremamente semplice. Se mi è consentito una piccola aggiunta sulla questione dei test, qui nessuno vuol fare accademia per cercare di evitare il giudizio negativo sulla scuola italiana, però noi siamo in enorme ritardo sulla questione della valutazione. Non prendiamo le ricette che all'estero sono state usate da anni senza vedere cosa è stato elaborato criticamente su queste esperienze. Esiste un'amplissima letteratura, anche molto autorevole, che mette in discussione la pretesa dei test oggettivi, delle misurazioni. Non si misurano le qualità, adesso sarebbe un discorso molto interessante da fare. Vediamo di prendere queste esperienze e di introdurre la discussione a livello più elevato, e non andare a raccattare innovazioni introdotte 20 anni fa all'estero che ora stanno mostrando il segno. Sono tutto anche qui, sulla via dell'incontrare le giuste critiche. No, l'ho capito. Ma questo è il problema. Non è certamente quello di cercare di aprire una discussione. Esatto. Sa, anche l'insegnare oggi fortunatamente è messo molto in discussione. Domanda per Pantaleo. Ha sentito il giudizio di Israel, un giudizio molto critico sulla somma di pedagogismo e scuola e formazione pubblica come grande fabbrica di ammortizzatori sociali, insomma. Secondo lei c'è in questi giudizi solo un punto di vista ipercritico e ingiustificato nei confronti dei difetti del sistema pubblico, o riconosce anche lei, la sua organizzazione, che forse bisognerebbe girare un po' pagina rispetto a scuola di massa per docenti di massa assunti per trovare i più possibile posti di lavoro ad altri che altrimenti non hanno uno sbocco sul mercato? Non ha contato davvero troppo questa maniera di vedere la scuola come, non come diplomificio, quello abbiamo criticato e ripeto, la penso come lei, ma come un enorme falansterio per dare posti di lavoro senza troppo badare a come e perché? Pantaleo. Io sono convinto che è possibile coniugare una buona scuola di massa con una scuola aperta appunto a tutti. Naturalmente ci sono da rivedere tante cose nella scuola italiana. C'è da rivedere il reclutamento, fermo restando che bisogna dare una soluzione oggi per i precari iscritti nelle graduatorie a esaurimento o le graduatorie permanente per il personale tecnico amministrativo, ma non c'è dubbio ad esempio che il reclutamento va rivisto. Va rivista la formazione per i docenti, quella iniziale e quella in servizio, ma ricordo che anche per la formazione in servizio sono state tagliate risorse. Va ripensato anche il modo di insegnare, perché oggi i ragazzi apprendono più notizie fuori che nella scuola, e quindi la trasmissione del sapere oggi è cosa ben diversa rispetto al passato. Bisogna sicuramente introdurre un sistema di valutazione, però senza improvvisazione. Guarda, io questa storia dell'ispettore a me pare un ritorno all'antico. Oggi i sistemi di valutazione questo paese non ha mai avuto, né una cultura né un sistema di valutazione adeguato. E anche, diciamo, i panicelli caldi, il tentativo di introdurre meccanismi premiali senza una logica, guardi, la mia opinione è che alla fine allontanano un sistema di valutazione adeguato. C'è da rivedere esattamente anche l'investimento che si fa all'interno della formazione. Io penso che un maggior investimento ad esempio deve essere finalizzato alle regioni del Mezzogiorno. Se sono veri i dati OCSE, ci dimostra che nelle aree del Mezzogiorno c'è bisogno più investimento, più tempi lunghi, insomma c'è bisogno di avviare un'azione riformatrice, ma per fare questo, insisto, c'è bisogno da un lato di avere una strategia e dall'altro lato di mettere in campo risorse, perché con i fichi secchi non se ne fa. Ne vorrei dire anche un'ultima cosa. Guarda, io sono d'accordo con quello che diceva il dirigente delle scuole, se ho capito bene, delle scuole paritarie. Sì, io sono perché si aumentano a tutti Pellegatta, però scusi, un'ultima cosa vorrei dire. Però chiedo anche alle scuole paritarie di farsi carico anch'esse fino in fondo di ciò che la scuola pubblica oggi fa, perché io non ho mai visto, guardi, scuole paritarie che hanno, diciamo, accettato bimbi disabili, immigrati, gente che ha problemi. Non lo so, Pellegatta, Pantaleo, non ci posso credere. Cioè, io conosco tantissime scuole cattoliche che accettano i disabili. Lei non mi può, non ci credo davvero. Siccome ho stima di lei, come dei dirigenti della sua organizzazione, dei suoi iscritti, non mi può dire che le scuole private non accettano i disabili e gli immigrati. Perché, insomma, chi abbia una minima idea di come funziona l'offerta di scuole, ripeto, io ho detto cattoliche, non le individuo in quanto cattoliche con le private, però ne sono una componente importante, e vogliamo negare la funzione di integrazione sociale che hanno le scuole cattoliche nel nostro paese proprio per disabili e immigrati? Non lo so. Detto questo, il punto di fondo è che secondo me, se i test ci dicono che al sud siamo 30 e 40 punti lontano rispetto alla media italiana, che è inferiore a quella OCSE, la mia idea è più risorse, sì, però anche cacciando un po' di gente che non sa fare il suo mestiere. E questo è poi il punto di fondo. Credo che i sistemi di ispettivi e di valutazione non piacciono all'organizzazione pubblica, perché esercitati seriamente portano a delle sanzioni, a perdere risorse, a dei disincentivi, a dei provvedimenti che devono pesare sulle carriere, sugli avanzamenti di grado, sulle promozioni per livelli dirigenziali. Ecco, il mio mondo ideale sarebbe questo, in cui contano le famiglie e in effetti chi sa far peggio il suo mestiere, perché dà peggiori risultati ai suoi studenti e peggiori retribuzioni poi a chi esce dalla laurea, e sì, becca delle sanzioni. Questo è il mio mondo ideale, ma il mio è un mondo evidentemente autoritario. Grazie ai nostri ospiti, a mio Pantaleo, a Giorgio Isola e Roberto Pellegatta, e a tutti voi appuntamento a domani di Nagionale Radio.